447. Tortino di patate seconda maniera. Il tortino di patate fatto nel seguente modo mi sembra che venga meglio del precedente. Patate grammi 500, burro grammi 50, farina grammi 30, uova numero 2, parmigiano 2 cucchiaiate, latte quanto basta, sale quanto basta. Fate una balsamella con la detta farina, con la metà del burro e il latte che occorre. Versate nella medesima le patate già cotte e passate. Lavoratele sopra il fuoco, versando il burro rimanente, il sale e tanto altro latte che basti a farne una pasta non troppo morbida. Ghiaccia, aggiungete il resto e rosolate il composto come il precedente.